Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Ingegneri del software, oggi in apertura di trasmissione lanciamo un invito diretto proprio a voi che magari vi state chiedendo come staccare un pass per un lavoro negli Stati Uniti. Grazie al nostro testimone della settimana saremo in grado di offrirvelo con tante dritte preziose per seguire le sue orme e cercare un'opportunità oltreoceano. Tirocini e lavori in Europa apriranno la puntata odierna del programma grazie alle segnalazioni di Federico Fabiani di Scambi Europei, programma che proseguirà poi su scala sempre più globale con le indicazioni delle offerte di impiego a livello internazionale. In onda con noi tornerà Alessio Romeo. E in chiusura spazio, come ogni primo sabato del mese, alle preziose dritte di Mario Gastaldi per fare impresa all'estero. Oggi Mario ci conduce in un paese davvero interessante che si trova a nord degli Stati Uniti. Potete solo immaginare quale. Tutto è pronto per volare, ovviamente virtualmente, considerate le perduranti restrizioni ai viaggi, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Venite con noi! Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ce lo fornisce l'agenzia internazionale di collocamento Kelly Services, che ha diffuso i tre consigli principe per i colloqui di lavoro online in tempi di mobilità ristretta. Se doveste sostenere video colloqui per offerte di lavoro all'estero, tenete presente queste regole d'oro. Primo, prestate attenzione al tono di voce, all'abbigliamento e alla postura. Il colloquio via Skype è equiparato a un colloquio vis-à-vis, per cui è importante cercare di arrivarvi preparati. Secondo, scegliete l'ambiente giusto in cui sostenere l'intervista, possibilmente un luogo tranquillo e privo di rumori di sottofondo. Infine, gestite le tempistiche per raccontarvi. Raccontate in modo mirato le esperienze e le competenze acquisite nel corso degli anni, gestendo le pause e prevedendo di lasciare il giusto spazio per le domande da porre al recruiter. Prosegue la collaborazione di Toolbox col portale Scambi Europei. Ogni due settimane segnalazioni utili e imprescindibili, nonché aggiornatissime su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Buon pomeriggio, Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei. Buon pomeriggio. L'emittente All News americana CNN sta ricercando degli stagisti da inserire nei propri uffici di Londra per uno stage. I destinatari di questa offerta sono laureati in giornalismo, scienze della comunicazione o affini, che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese, sia orale che scritta. Lo stage si svolgerà dal 1 settembre al 31 dicembre. E tra le principali responsabilità del tirocinante rientrano l'attività di ricerca, la verifica delle notizie, la partecipazione a meeting e riunioni e la scrittura dei contenuti. Sono inoltre disponibili due tipologie di stage differenti, i news internship, che sono dedicati al giornalismo tradizionale, e i digital internship, che sono invece dedicati alla produzione di contenuti multimediali. La scadenza per inviare le candidature è il 1 luglio. Come ogni anno, la National Geographic Society promuove una serie di borse di studio volte a finanziare percorsi di ricerca nel campo della sostenibilità, dell'esplorazione, dell'educazione, della conservazione e dello storytelling. Le proposte dei progetti di ricerca devono rispondere a requisiti di originalità e innovazione e è possibile presentare un solo progetto alla volta. Sono previste due tipologie di borse. Una che è la Early Career Grants, dedicata ai giovani ricercatori con finanziamenti che vanno dai 5 ai 10.000 dollari, e poi gli Exploration Grant, cioè delle borse dedicate a ricercatori più esperti con finanziamenti che vanno dai 10 ai 30.000 dollari. La scadenza per inviare la propria proposta di progetto è ottobre 2020. L'Organismo dei Regolatori Europei delle Comunicazioni Elettroniche, il BEREC, è un'agenzia dell'Unione Europea con il compito di supportare la Commissione Europea nell'attuazione della normativa in merito alle telecomunicazioni. Attualmente il BEREC offre la possibilità di stage della durata di 6 mesi nella sua sede di Riga, la capitale della Lettonia. Gli ambiti di svolgimento dei tirocini sono la comunicazione, le risorse umane, ICT e logistica, il dipartimento legale e quello amministrativo. È richiesta una laurea o un titolo di educazione equivalente in uno degli ambiti di lavoro attinenti e una buona conoscenza della lingua inglese. La data di inizio indicativa del tirocinio è il 1 ottobre e le candidature si chiudono a luglio. Il segretariato dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, che si trova a Ginevra, promuove anche quest'anno il programma Young Professional, l'attività di reclutamento di professionisti che intendano iniziare una carriera come funzionari pubblici in organizzazioni internazionali. Si tratta di un'offerta di lavoro della durata di 12 mesi nella sede svizzera dell'organizzazione. per ragazzi e ragazze che non abbiano ancora compiuto 32 anni entro il 1 gennaio 2021. Oltre all'età, tra i requisiti è richiesta la laurea in economia del diritto, commercio internazionale o altri settori rilevanti per il lavoro, almeno 2 anni di esperienza professionale rilevante, l'interesse per il commercio internazionale, un'ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Inoltre, la conoscenza di francese o spagnolo costituiranno dei vantaggi per la selezione. Lo stipendio iniziale è di circa 3.500 franchi svizzeri al mese e la scadenza per candidarsi è il 29 maggio. Per tutte le informazioni, www.scambieuropei.info. E ora è il momento di introdurre il testimone della settimana, un giovane assistant professor italiano 29enne al lavoro nei pressi di New York. Roberto, ingegnere del software per formazione, ha colto al volo un'opportunità di insegnamento accademico oltreoceano e si è fiondato negli Stati Uniti per tentare l'ascesa professionale. I suoi consigli sono ovviamente imperdibili. Buon pomeriggio Roberto Comella. Buon pomeriggio, ciao Sergio. Diploma da geometra, laurea in ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione a Politecnico di Torino, parti per la California per un master post laurea, vi rimarrai un anno. Prima domanda, perché fare un master negli Stati Uniti e come sceglierlo? Ma allora, un master negli Stati Uniti perché, diciamo, finita la laurea triennale è stato, mi si è posto davanti un bivio che era quello di o continuare con un percorso abbastanza standardizzato o provare a fare, diciamo, il gran salto. E così è stato, e ovviamente la scelta è ricaduta in un percorso che fosse in linea con quello che volevo fare, quindi lo sviluppo di software. E quanto è stato utile per te quel periodo oltreoceano anche in termini di crescita formativa e personale? Sì, allora sicuramente è stato un periodo fantastico in termini di crescita generale. A livello formativo impari molte cose, dipende soprattutto da te quanto vuoi imparare, ma ci tengo a dire che soprattutto a livello di vita, quindi a livello diciamo sociale e di crescita, è stato fondamentale. Impari a crescere, impari a stare da solo, lontano dalla famiglia, impari a spostare il limite, diciamo, un po' più in là, insomma, l'asticella un po' più in alto. Prima di entrare nel vivo della tua storia e dei tuoi consigli, una domanda d'obbligo, perché tu sei in un paese che ormai è al centro della pandemia. Come si vive in questi giorni, queste settimane, negli Stati Uniti, sulla costa est, dove ti trovi? Ma sì, allora, diciamo che nella mia zona, nello specifico, essendo una zona lontana da New York City, si vive diciamo col virus, ma si sente molto meno la criticità del problema. Sicuramente conosco persone che da New York City invece hanno affrontato un problema un po' più grande, essendo appunto il centro nevralgico da dove è partito tutta la, diciamo, l'epidemia statunitense. Torniamo sulla tua storia. Al rientro in Italia hai avviato un tuo studio indie per lo sviluppo di videogames ed app prima di spostarti in Svizzera. Parentesi elvetica, la Svizzera secondo te è un posto interessante per trovare lavoro come ingegnere del software? Beh, sicuramente la Svizzera, specialmente quella tedesca, quindi parliamo di Zurigo e zone limitrofe, è un gran posto per trovare lavoro in questo settore. È un nido di startup pazzesco, ci sono uffici pieni di startup, ovviamente le condizioni lavorative sono ottime, i stipendi sono molto alti, quindi sicuramente è un posto dove, se uno voglia di fare, lo consiglierei vivamente. Come è nata a un certo punto di te l'idea di tentare il grande salto negli Stati Uniti? Allora, l'idea è nata dal fatto che c'era la voglia di provare ad andare oltreoceano, e questo perché ovviamente anche gli Stati Uniti sono un gran posto per nel settore software. E io avevo già tentato in passato e quindi mi sono riproposto e questa volta insomma è andata bene. Ti chiedo subito come cercare opportunità accademiche oltreoceano, da dove cominciare? Ma allora, l'idea è quella, sicuramente più si è specializzati in qualcosa meglio è, nel senso che diventa più facile, si inseriscono delle keyword online e diventa abbastanza tutto automatico. La cosa migliore oggi è da online utilizzare portali di ricerca di lavoro, quali LinkedIn, Indeed, ma come Etsy ce ne sono molti altri. Hai qualche sito da consigliare per cercare lavoro in università negli Stati Uniti? Ci sono portali oppure candidarsi direttamente con gli atenei? Sicuramente, se uno vuole rimanere nel settore universitario, la cosa migliore è candidarsi, andare nell'ateneo specifico, magari del settore specifico, e quindi nel mio caso software, e cercare gli atenei migliori e mandare l'application direttamente nell'ateneo. Questo appunto non esclude però la ricerca sui portali citati prima, quindi LinkedIn, Indeed. Quali pratiche hai dovuto fare invece per ricevere il visto? Allora, le pratiche per ricevere il visto sono, pensavo, più lunghe. La cosa principale ovviamente è il passaporto e l'offerta di lavoro. Con questi si va in consolato, si fa la richiesta, cioè, o meglio, la richiesta viene fatta dalla società che sponsorizza il visto. Tu vai in consolato per presentarti alla interview e, se tutto va bene, fila liscio, ottieni il visto. Nel caso del visto lavorativo, ovviamente le tempistiche sono un po' più lunghe e soprattutto se non si è in ambito accademico, quindi se fosse stata una società privata, sono ancora più lunghe, perché ci sono, c'è il discorso dei cap, quindi ci sono numeri limitati di visti, cosa che non è così per le università. C'è un visto specifico per l'università, che nome ha? Sì, è l'H1B, che è anche quello per le società private, quindi se tu vuoi lavorare in un'azienda qualsiasi. Però la differenza è che non è mai cap, quindi non c'è un limite numerico di visti all'anno, diciamo, possibili. Ci racconti brevemente il percorso di selezione, come si è svolto, dove, quale curriculum hai dovuto presentare per lavorare in università? Sì, allora io ovviamente mandando il curriculum è in versione americana, è molto gradito, quindi senza foto, con molto sintetico. C'è stato un primo contatto dove l'università mi ha chiesto di fare un primo colloquio via Skype, è solo telefonico, quindi non vedi nessuno, è molto, diciamo, forte a livello, diciamo, empatico, perché non vedendo nessuno senti tante voci, e forse quello è anche il primo test per vedere, diciamo, lo stress, come gestisci lo stress. Dopodiché c'è stata una seconda intervista via Skype, questa volta anche video. Si discute un pochettino di quello che sai fare, quello che potresti portare, diciamo, in azienda o in università, e il terzo step è quello di discutere le condizioni economiche. Se si arriva a un accordo, dopodiché arriva l'offerta. E attualmente qual è la tua posizione? La mia posizione qua è come assistant professor e tengo lezioni in tre corsi diversi. Apriamo una parentesi invece per quanto riguarda l'ingegneria del software, che poi è, diciamo, la tua passione, la tua formazione. Hai dei consigli da dare per quanto riguarda gli Stati Uniti, magari nell'ambito privato, dei siti da consigliare per cercare lavoro? Beh, allora, nell'ambito privato sicuramente più si hanno specializzazioni, nel senso, non solo a livello di ciò che sai fare, ma anche proprio se hai delle keyword fondamentali nel tuo lavoro, è sicuramente bene utilizzarle, perché quelle ti portano direttamente a ciò che tu stai probabilmente cercando. I siti, come ho già detto, diciamo LinkedIn e Indeed sono quelli che io utilizzo più frequentemente, conosco anche Craigslist, ce ne sono molti altri. Altrimenti provare a cercare, se uno è interessato nello specifico ad alcune aziende, cercare direttamente delle openings sui siti aziendali, quindi nella sezione careers, e vedere cosa si trova. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Aiutiamo Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Roberto Comella, 29enne assistant professor al lavoro negli Stati Uniti. Roberto vi è approdato dopo alcune esperienze professionali tra Italia e Svizzera, ha intravisto un'opportunità oltreoceano, vi si è candidato e ora lavora in ambito accademico. Ovviamente, come sempre facciamo, anche Roberto è con noi oggi con l'obiettivo di regalarvi consigli preziosissimi. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Vita oltreoceano, immagino il tuo primo problema sia stato trovare un alloggio, e anche qui hai dei siti da consigliare o delle dritte da fornire? Beh sì, sicuramente. Allora, io anche nella parentesi elvetica, quindi in Svizzera, ho utilizzato tantissimo Airbnb. Airbnb sta diventando, secondo me, fondamentale per gli spostamenti, nello specifico per il primo approccio ovunque vai, perché è immediato, è abbastanza sicuro e garantito, e soprattutto ti evita magari pesanti depositi cauzionali e cose di questo genere. Dopodiché, se tu sei fortunato e insomma bravo, riesci magari a trovare un accordo a lungo termine sempre con la persona su Airbnb, o altrimenti incominci a spostarti su dei portali di ricerca online più specifici alla zona dove ti trovi. Ci raggiungerà in linea Carolina Ferrari, digital artist a Zurigo in Svizzera. Buon pomeriggio Carolina. Buon pomeriggio Sergio. Laurea in design industriale e magistrale in design produttivo per l'innovazione tra Venezia e Milano. Dopo un po' di esperienza e lavoro in Italia hai fatto il salto professionale verso la Svizzera. Come ci sei arrivata, ma soprattutto di cosa ti occupi esattamente? Dunque, io sentivo l'esigenza di fare un'esperienza lavorativa all'estero e così ho inviato il mio portfolio a diverse aziende di produzione digitale fino a che una di queste mi ha risposto. E questa esperienza è durata 9 mesi e successivamente ho trovato il mio attuale lavoro presso un'azienda che offre servizi informatici di machine learning e intelligenza artificiale, dove attualmente mi occupo di modellazione e animazione 3D. Più in generale, Carolina, quali opportunità offre la Svizzera ai designer o comunque chi lavora in ambito machine learning e informatico? Meglio il settore privato, quello accademico? Allora, sicuramente la presenza in Svizzera di università prestigiose come l'ETH a Zurigo e l'EPFL a Losanna permettono che si sviluppi un ambiente dinamico e ricco di innovazione. E, inoltre poi in Svizzera ci sono le principali sedi europee delle più grandi multinazionali di diversi settori e quindi da questo nascono moltissime opportunità lavorative anche per designers e digital artists che sono diciamo legate a queste importanti realtà. Ci sono dei siti particolari che consigli per trovare lavoro in Svizzera, anche perché se ricordo bene senza contratto di lavoro non hai il permesso di soggiorno? Sì, io ho applicato direttamente alle aziende che mi interessavano, altrimenti si può sicuramente cercare su LinkedIn oppure jobs.ch e job-scout24 e ce ne sono sicuramente altri. E, per i digital artist ogni tanto compare qualche offerta proveniente dalla Svizzera anche su ArtStation. Come si vive in Svizzera in queste settimane, in questi giorni, ai tempi del coronavirus? Mm-hmm. La situazione anche lavorativa è più rilassata rispetto all'Italia? Sì, è decisamente più rilassata perché diciamo non ci sono le restrizioni così importanti che invece ci sono in Italia. Noi stiamo lavorando da casa ma non siamo obbligati, cioè volendo potremmo continuare a svolgere la nostra attività anche in ufficio. Comunque i negozi sono tutti chiusi a parte quelli diciamo necessari. Da questa settimana stanno riaprendo pian piano queste attività e comunque si vige la restrizione di mobilità, nel senso che si può uscire liberamente ma bisogna stare a una distanza sociale di almeno 2 metri e anche all'interno dei locali possono entrare solo un numero limitato di persone alla volta. In un flash Carolina, come trovare casa a Zurigo e anche quali affitti aspettarsi? Allora, trovare un appartamento anche condiviso in città non è facile, soprattutto perché i prezzi sono piuttosto alti per una persona che ha la prima esperienza di lavoro. Però non è impossibile, ci sono dei siti dedicati per confrontare le varie offerte e comunque anche diciamo accettando di non vivere proprio in centro città ma un po' in periferia si possono comunque diciamo gli affitti sono più bassi e la rete di trasporti pubblica è molto efficiente, quindi si può tranquillamente arrivare in centro a Zurigo in pochissimo tempo. Grazie a Carolina Ferrari e dalla Svizzera ci rispostiamo nuovamente negli Stati Uniti per la domanda di rito a Roberto Comella. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Beh, allora, sicuramente riassumerei il consiglio in 3 parole. La prima è la lingua, la seconda è la specializzazione e la terza è il coraggio. Servono tutte e 3 per riuscire a fare il grande salto. Lingua, perché bisogna ovviamente ovunque si vada bisogna la prima cosa è poter comunicare. La seconda, specializzazione, nel mio caso ovviamente la lingua si parla di inglese ma in generale ovunque si vada la lingua deve essere quella. E, la seconda cosa è la specializzazione, cioè ovunque vai devi comunque saper fare qualcosa, qualunque cosa essa sia, però devi avere una specializzazione, devi portare qualcosa. E la terza è il coraggio, perché devi avere la voglia e il coraggio di fare un salto nel buio. Non sai cosa trovi, sai cosa lasci ma non sai cosa trovi, insomma il famoso detto. E quindi riassumerei insomma il consiglio in queste tre parole. Siamo arrivati al momento della rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna oggi a tracciare il quadro delle più interessanti offerte di impiego attualmente aperte a livello internazionale Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation. Ascoltiamo allora cosa ha da dirci. Stiamo per entrare finalmente nella cosiddetta fase 2 con l'allentamento del lockdown per una ripresa delle attività che si spera sia rapida e concreta. A livello global la situazione è più allegra rispetto all'Italia in quanto i governi manifestano più flessibilità e volontà di movimento agile. E allora per questo appuntamento inizio maggio, mese pertanto di nuova transizione, ci dedichiamo a un'azienda, direi sempre verde, che nonostante lo stop globale delle attività ha mantenuto alta la bandiera, per ovvi motivi anche di settore in cui opera e quindi sempre alla ricerca di nuova forza lavoro a livello globale. Parliamo di Microsoft, il colosso fondato da Bill Gates nel 1975 nello stato di Washington. Microsoft si presenta con la sua sezione Careers Online con 3.689 offerte di lavoro catalogate per regione, provincia e città, per poi scendere nel dettaglio delle professioni ricercate, tipologia di contratto e seniority. A primo posto abbiamo gli Stati Uniti con 2.625 vacancies, seguito dall'India con 230, quindi Cina 217 e Giappone 76, e con la prima europea che è la Romania con 73 offerte, quindi UK con 70 al pari di Israele, Portogallo 30, Olanda 16, Danimarca 14, Germania 13, Francia 12 ed in fondo l'Italia con solo 2 posizioni disponibili. Chiaramente anche in tutte le altre country del mondo ci sono posizioni aperte disponibili per diverse tipologie di professioni. Dando uno sguardo alla tipologia di divisione più ricca di opportunità, abbiamo al primo posto Engineering con 2.340 vacancies, quindi Services con 459 e Research con 265. Le meno dinamiche al momento risultano le divisioni Legal, Finance, Marketing, Risorse Umane e Business Development e Strategy. Le posizioni più ricercate sono quindi Software Engineer con 1.428 posizioni aperte, Program Management con 561, Support Engineering con 420. La richiesta è per la quasi totalità per posizioni full time con 3.401, internship 233, postdoc research con 16 posizioni. Di tutte queste posizioni risultano manageriali e quindi al governo di team ben 297 opportunità. Infine è richiesta soltanto per qualche centinaia di persone l'obbligatorietà della laurea, solo per qualche decina di dottorati e soltanto 3 MBA. Il resto dei profili è pertanto richiesto con esperienza comprovata di settore. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Torna anche questo mese Imprenditori Globali, lo spazio di consigli su come andare a fare impresa all'estero. E torna con noi anche Mario Gastaldi, consulente internazionale e creatore del gruppo Facebook L'Arte dell'Espatrio Ragionato. Mario oggi ci porta in Canada. Parliamo del Canada Startup Visa. Prima di tutto, alcune parole sul Canada. Saprete già che secondo il World Report 2020 di US News, il Canada si posiziona come il paese con la migliore qualità della vita al mondo. Dal punto di vista delle risorse umane e dei talenti disponibili, Toronto è una delle 5 città nordamericane con il mercato di talenti della tecnologia più attivo e fornito di professionalità. Il Canada Startup Visa offre agli imprenditori internazionali la possibilità di inserirsi in un ecosistema che aiuta e favorisce la crescita insieme all'acquisizione della residenza permanente nel paese. Per accedere al Canada Startup Visa non ci sono requisiti di patrimonio personale e né di investimento minimo da parte dell'imprenditore espatriato. Sono necessari esclusivamente fondi pari a $10,000 più $2,500 per ogni componente della famiglia per dimostrare di avere la capacità di sostenersi durante il periodo di avviamento ed è necessario superare un facile test di conoscenza dell'inglese o del francese. Trascorsi 3 anni, si può fare richiesta del passaporto canadese, una possibilità questa davvero importante. Come funziona il programma? Ci sono 3 opzioni. La prima, essere accettati da un incubatore di business che vi aiuta nella preparazione del business plan. Tipicamente l'imprenditore paga circa $70,000 all'incubatore. La seconda, ottenere il supporto di un angel investor designato dal governo che può partecipare all'iniziativa con fondi intorno a $60,000 a sostegno dell'iniziativa stessa. Infine, la terza possibilità consiste in ottenere il supporto di un gruppo di venture capitalist designati dal governo perché investano $150,000 nel progetto. Le scelte dell'imprenditore dipendono dal grado di avanzamento del suo progetto e dalle sue circostanze particolari. Se il progetto viene accettato, si ha diritto alla residenza permanente in Canada. Il processo può richiedere fino a 18 mesi, ma è possibile avere un permesso di lavoro a breve termine nell'attesa. E questo è il Canada Startup Visa. A presto!